Bentornati dopo le pause musicali che ci regalano i ragazzi del clan. Siamo qui a parlare della Dea Tiche, ovvero della fortuna. E vi stavo leggendo appunto, vi ho detto poc'anzi che uno dei re che si definisce essere veramente fortunato era Servio Tullio. Servio Tullio, appunto, era il re che più fra tutti fu favorito dalla fortuna. Si racconta anche che ella l'avesse amato, benché egli non fosse che un mortale. Quindi è come se ci fosse stata una storia d'amore fra questo re e Tiche. A Roma, Fortuna fu la dea dell'abbondanza che presiedeva alle fecondità della natura e della vita umana e al benessere anche. Divenne anche la dea della sorte favorevole o avversa, del caso della felicità. Come tale, presiedeva a tutti gli avvenimenti e distribuiva il bene o il male. Le matrone avevano per lei una venerazione speciale. Fu adorata sotto diversi aspetti e con diversi epiteti. Fortuna primigenia, fors fortuna, fortuna averrunca, allontanante la sventura, fortuna barbata che fa passare dalla fanciullezza alla virilità, fortuna blanda, benigna, fortuna bona, fortuna brevis che dura poco, fortuna comes, compagna e guida dei viaggiatori, fortuna equestris dei cavalieri, fortuna libera degli uomini, fortuna liberarum dei figli, fortuna muliebris delle donne, fortuna virginalis delle fanciulle, fortuna pubblica, fortuna privata, eccetera, eccetera. La sua funzione era decidere delle qualità del destino dei mortali. Originariamente distribuiva fortune e sfortune secondo criteri di equità nella concezione che il mondo soggiacesse a una legge di armonia, per via della quale il bene e il male si compensavano in egual misura. Infatti, chi non ringraziava gli dèi per le fortune acquisite avrebbe subito l'intervento di Nemesis, la giustizia compensatrice, o giustizia divina. Nemesis avrebbe fatto intervenire un evento o una situazione negativa dopo ogni periodo particolarmente fortunato, come atto di giustizia compensatrice distribuito dal fato. L'idea che soggiaceva al meccanismo fu superata con le successive immagini di fortuna come dea bendata, cioè casuale, dispensatrice di prosperità o eventi favorevoli, che fu in auge fino alle rappresentazioni medievali e reggeva la cornucopia dell'abbondanza tra le braccia. Oppure ancora che teneva in mano la ruota della fortuna o un timone, dato che lei, che era lei che pilotava la vita degli uomini. Tuttora nei proverbi popolari la fortuna è cieca e le allegorie della dea bendata non si contano, ed era quello che noi dicevamo all'inizio. Poi, cos'altro ho trovato? La fortuna è stata anche definita da Aristotele. Per il filosofo era una causa accidentale nelle cose, in quelle cose che non avvengono né sempre né per lo più, che avvengono per una scelta in vista di un fine, una particolare forma del caso. Il filosofo Severino Boezio, nel De Consolazione Filosofia, paragonava la fortuna a una ruota che fa girare la vita degli uomini. Essi infatti a volte si trovano in una posizione favorevole, a volte no, perché la fortuna filosoficamente rimanda alla casualità e a quel qualcosa contro cui la volontà umana nulla può fare. Tutto ciò che sfugge al controllo della nostra volontà rischia di essere privato di senso e relegato appunto alla fortuna o al regno della scaramanzia della provvidenza. Ma il riconoscere il potere della fortuna del correlato caos è un atteggiamento in antitesi con la possessività, l'attaccamento e gli eccessi del destino di controllo. La fortuna bendata scarica l'ego riferimento in tutte le sue forme, anche e soprattutto il principio meritocratico, cioè laddove c'è fortuna la meritocrazia non ha senso. Accettare le sue leggi imprevedibili è difficile, si fa viva a suo criterio e allo stesso modo si nasconde e ci sfugge. La fortuna si sposa con il distacco, possiamo cercarla e accoglierla serenamente, solo se il nostro attaccamento ai beni non è morboso, se riusciamo a dare il giusto valore alle cose e capire che anche ciò che consideriamo sfortuna ha un significato nella nostra crescita. L'idea della fortuna è comunque sopravvissuta ai secoli, continua l'articolo, e in ogni modo anche alla dottrina cristiana. Il Dio dei cristiani ha potere su tutte le cose, ma la dea della fortuna è un lascito degli dei pasticcioni dell'Olimpo, così interessati ai fatti di questo mondo.